È venerdì 12 febbraio e siamo qui con i titoli soprattutto declinati alla situazione finanziaria. Crollano borse, petrolio, sale lo spread. Questo è il titolo del Sole 24 Ore di prima pagina. Piazza Affari ha perso anche ieri il 5,63%. Per il Corriere della Sera, borse, il caso Deutsche Bank e dunque la questione soprattutto dell'istituto tedesco. Repubblica, il grande caos delle borse, Unione Europea, Juncker, gela Renzi. Anche la Stampa mette insieme deficit, sfida di Renzi all'Europa, la sfida di Renzi, ma Juncker che risponde. Per Libero, la bancarotta di Renzi, questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Messaggero, retromarcia USA, borse a picco. Il titolo invece del giornale è Banche, c'è il salva amici di Renzi. Nuova legge, sospetti su tre piccoli istituti toscani che vogliono evitare la fusione. Anche il giorno, borse KO, pasticcio banche. Come vedete, i titoli sono soprattutto dedicati a questo. C'è poi il Cardinal Bagnasco che interviene e Avvenire titola Unioni e adozioni, bivio di chiarezza, Bagnasco, libertà di coscienza ed è polemica. Mentre il Manifesto mette il Cardinal Bagnasco, il titolo è Non c'è più religione. L'Unità invece, Dio ti vede, Bagnasco no. Il presidente della CEI a gamba tesa sul Parlamento chiede il voto segreto. Ma io voglio partire da due belle storie. Oggi ben due ve ne posso offrire. La prima è questa. Insomma, l'abbiamo conosciuto. Io personalmente ho colmato una lacuna con Sanremo. In come diventare superstar in 13 minuti. È successo a Ezio Bosso, musicista, affetto da SLA, che si è presentato a Sanremo con tutte le sue fragilità fisiche, ma la sua straordinaria forza d'animo a incantare. È scolpita anche nell'immagine quel fotogramma di una delle orchestrali, una che era nell'orchestra di Sanremo, colta in lacrime, mentre Ezio Bosso raccontava la sua forza, la sua capacità, il suo entusiasmo, no, di affrontare la malattia con grande determinazione, e poi ha incantato tutti anche quando ha suonato. Ebbene, Ezio Bosso, che racconta nei giornali, in un giorno si è svegliato, ha scoperto la notorietà, anche se lui dice in un paio di interviste, io suonavo anche prima, 145.000 amici su Facebook in più, cioè si è svegliato il mattino dopo la performance di Sanremo e ha trovato questo. Beh, Bosso fa due interviste che vi segnalo, una da Repubblica e una Libero. Intervistato da Repubblica, da Angelo Carotenuto, eccolo qui. È arrivato all'Ariston, i telespettatori intanto sono passati da 11 a 13 milioni quando è arrivato lui. Si è svegliato il giorno dopo, in testa alla classifica di iTunes col suo esordio. Ha acceso il PC, ha trovato 145.000, non 125.000, 145.000 persone in più iscritte alla sua pagina Facebook. E dice Bosso, forse esiste un bisogno di ascoltare cose meno urlate e più sincere, forse esiste una necessità di sentirsi meno Superman. Io suono con uno speciale piano, i tasti del mio piano pesano quasi la metà rispetto agli altri, 29 grammi contro 56, altrimenti non ce la farei a suonarli. Mi stanco, si gelano le dita. A guardarmi ora sono perfino fichissimo. Oppure un preparatore, Pietro Azzola, ma fino a poco fa era una discussione continua per avere un piano così. Mi sono trasferito a Londra perché lì hanno avuto sin dall'inizio meno paura della mia musica. Sono cresciuto con un fratello più grande di 12 anni e una sorella di 6. La mia prima composizione a 11 anni, l'età in cui Mozart era già a 300. Era bruttissima, scritta con una penna rossa. Sarà chiusa in qualche cassetto o in qualche cassonetto, dice Bossa. A questo punto sospetto che verrà fuori postuma, ne sono certo. E poi risponde... Lui ha ironizzato su Twitter perché il collettivo, il blog satirico Spinoza, l'ha preso in giro per la sua capigliatura definita da coglione, e lui ha risposto, beh, perché mi pettino da solo, con le mani ovviamente così sofferenti e tremanti, e dice: non mi sono offeso Spinoza, anzi mi piace un casino, potrei mai prendermi sul serio, io sono già così come mi vedete, se facessi il tronfio, sai che noia, solo la musica merita tutto l'impegno. E poi parla un po' di sé, dice: io non sono credente, sono diversamente credente, sono così ateo da non sopportare gli altri atei. Qualsiasi cosa riguardi la religione nasce come un aiuto a vivere. Non è bellissimo? Che noia raccontarsi che tutto finisce. Il mistero è parte della fede cristiana, ma può essere usato con ambivalenza. Credere è un equilibrio delicato. Trovo ristoro nell'ascolto degli altri, negli sguardi, nella capacità di farsi compagnia. Amo le preghiere. Il Padre Nostro è magnifico. Credo nella poesia, in Emily Dickinson, nella semplicità di Prévert. La musica mi ha dato una bella vita, mi ha fatto viaggiare, conoscere la filosofia, la pneumologia, la meteorologia, mi ha fatto incontrare l'amore. Certo, mi ha tolto il fatto che da ragazzo mi impediva di andare a giocare a rugby, lo sport che amo di più. A scuola ero un caprone, la musica mi ha insegnato a incuriosirmi. Un amore non può toglierti qualcosa. Mi fanno ridere quelli che raccontano di essersi sacrificati per amore. Peggio per loro. E ancora Bosso, cosa pensa che possa cambiare nella sua vita? È strano, sembra che prima di Sanremo io non avessi mai suonato in vita mia. La differenza è che ora ve ne siete accorti. Cosa mi manca? Quei bei viaggi lunghi che facevo una volta in Vietnam, in Argentina, nella Terra del Fuoco, alla fine del mondo. E c'è qualcosa che mi fa paura? Beh, le paure servono, risponde Bosso. Non è utile scacciarle. Ho paura che la paura un giorno mi paralizzi, questo sì. Ma non vale solo per me. Mi spaventa che possa accadere a chiunque. Beh, insomma, come diventare star, ma anche come davvero raccogliere l'applauso di tutti. Ezio Bosso che ha stregato l'Ariston. L'intervista che ho letto era di Repubblica, ma ce n'è anche una di Leonardo Iannacci su Libero, ve le segnalo, eh? Comprate i giornali e leggetele perché sono davvero molto belli. Come un'altra bella storia, ho detto che ve ne avrei proposte due, un'altra bella storia è questa, riguarda un fatto di cronaca che era una tragedia, poteva diventare una tragedia, di questo ragazzino, se vi ricordate, Michael, che si buttò in un fiume e rimase 42 minuti sott'acqua, incastrato con un piede in un ramo, e che è stato salvato dallo staff del professor Zangrillo a San Raffaele di Milano con una tecnica incredibile, perché c'era una probabilità su 1 milione che potesse sopravvivere questo ragazzo. Lo hanno attaccato a questa macchina particolare che si sostituisce a cuore e polmoni e permette la circolazione extracorporea. È vero, ha perso una gamba, ma ha avuto ancora una vita, una nuova vita. E oggi racconta al Corriere della Sera per la prima volta Simona Ravizza, a pagina 21, io rinato a 15 anni dopo 42 minuti sott'acqua. L'ultimo ricordo, pensavo a mio fratello che è down, è più piccolo di me, gli voglio benissimo, pensavo a lui e non volevo perderlo. Poi certo non ho ricordo più nulla, quella è l'ultima immagine, quando ero incastrato sott'acqua con un piede nel ramo. E comunque Michael racconta il suo miracolo, si lamenta anche perché la protesi per la gamba, visto che ha perso una gamba, è ferma per la burocrazia, pensate, ma racconta questo straordinario, si può dire, ritorno alla vita, anche se non è mai morto, però 42 minuti sott'acqua, oggi sul Corriere racconta per la prima volta come si ritorna di fatto a vivere. Vabbè, dopo queste due storie, che dire, devo saltare a quelle che invece, come dire, fanno un pochino arrabbiare, ecco, è un po' così. Per par condicio, 2-2, ve ne beccate anche due che dopo il buon umore che magari vi ha messo la storia di Bosso e quella di Michael vi faranno passare invece queste due un weekend un po' così, magari appesantiti nell'animo. Vacche, pipistrelli, bachi da seta, così l'Europa butta i nostri soldi. Domenico Ferrara e Giovanni Masini per il giornale hanno scovato nel bilancio dell'Unione Europea alcune cifre che sono molto emblematiche, tipo 250.000 euro dell'Unione Europea bilancio per testare il ricorso alla gestazione partecipativa dei pascoli in Kenya e Tanzania. Chiaro? Per nulla, ma non importa, di certo c'è l'ammontare del progetto, o 500.000 euro per aiutare i bachi da seta, o ancora 500.000 per l'attenuazione dell'impatto delle pale eoliche su popolazioni di pipistrelli e uccelli nelle rotte migratorie. E ancora 34.000.000 per la cooperazione con la Groenlandia, che per carità è importante, ma capite che in 34.000.000 così buttate lì ci rischia di entrarci un po' di tutto e anche magari di cose che non devono entrare. Comunque, vacche, pipistrelle e bachi da seta nel bilancio 2016 dell'Unione Europea si trova un po' di tutto. Ma soprattutto, appoggiate tutto ciò che avete che possa essere contundente, anche, che ne so, un cucchiaino. Magari il cucchiaino per lo yogurt che state mangiando in questo momento potrebbe dimostrarsi affilato e pericoloso se usato in maniera imprudente. Oppure, se siete in macchina, come al solito, mani sul volante, ben fermi. Fermi, anzi, accostate un attimo, perché bisogna raccontare. Nel paese in cui tutti si scagliano contro i furbetti del cartellino, no? Celebra il caso di Sanremo, il vigile in mutande, lo sapete, bla bla bla bla bla bla, i primi a scagliarsi sono i politici, che chiedono rigore, che chiedono rispetto delle leggi, che dicono licenziateli quelli che fanno i furbetti del cartellino. Al Senato, scrive il Messaggero con Claudio Marincola, ci sono vari furbetti del tesserino. I furbetti del tesserino cosa fanno i senatori? Alcuni, per carità, timbrano, nel senso che lasciano il tesserino dentro il loro scranno. C'è un apposito luogo dove si mette per testimoniare che sono presenti e per votare. Si assentano, vanno via, ma lasciano lì il tesserino, così pur non votando risultano presenti. E il fatto di risultare presenti non gli fa perdere la diaria di 3.503 euro al mese, che si somma ovviamente all'indennità. 3.503 euro al mese, così i senatori timbrano per la diaria e se ne vanno, scrive il Messaggero. Sono i furbetti del tesserino. E racconta un commesso, ovviamente in maniera anonima. Shh, non dica per favore che gli ho detto io. A fine seduta giriamo tra i banchi ed è una pesca miracolosa. Recuperiamo tutti i tesserini lasciati lì nonostante il senatore sia a farsi i fatti suoi, perché dobbiamo restituirglieli il giorno dopo. Sono lì una pesca miracolosa, un tesserino, due tesserini, tre tesserini, quattro tesserini. Allora, siamo qui a parlare ancora di unioni civili. Lo so, cari ascoltatori, tenete duro se non ne potete più di questo dibattito. Martedì prossimo si vota, secondo me settimana prossima sarà davvero decisiva, questa volta lo posso dire, almeno su questo fronte, e poi ci sarà uno strascico di polemiche e poi di questa cosa non ne sentirete più parlare. Si va a ondate, no, in Italia, lo sapete. Ieri il cardinal Bagnasco, rispondendo a una domanda, ha detto qualcosa che ha fatto arrabbiare moltissime persone, le istituzioni al Senato, anche molti giornali che usano l'espressione più in voga, come cardinal Bagnasco entra oggi a gamba tesa sul Senato. Perché? Perché il cardinal Bagnasco, rispondendo appunto alla domanda, ha auspicato in pratica il voto segreto. Ha auspicato questo, che questo accada al Senato. Tutti i giornali raccontano, per esempio La Stampa, Francesco Maesano, Angelo Bagnasco è entrato con forza e senza troppe cautele nel dibattito sulla legge delle unioni civili. Ci auguriamo, ha detto, che la discussione in Parlamento nelle varie sedi istituzionali sia ampiamente democratica e tutti possano esprimersi ed essere considerate le loro obiezioni e che la libertà di coscienza di ciascuno su temi così delicati e fondamentali per la vita della società sia non solo rispettata ma anche promossa con una votazione a scrutinio segreto. parole che hanno portato tutti gli esponenti del Senato, molti esponenti del Senato, a dire non decidono loro. Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, viene intervistata da Repubblica, da Goffredo De Marchis, dice il Parlamento ha una funzione diversa da quella della Chiesa e deve esercitarla fino in fondo, a ognuno il suo ambito. Sono sempre molto attenta delle opinioni altrui, dice la Fedeli, leggo, ascolto, rifletto anche sulle parole di esponenti della CEI, cioè dei vescovi, ma la chiarezza e il rispetto devono essere reciproci. In questo caso le procedure su voti segreti e tutto ciò che attiene ai lavori dell'Aula sono scritte nei regolamenti stabiliti dall'applicazione degli stessi. E dunque non mi interessa usare le dichiarazioni di Bagnasco per fare polemica, ma dice Valeria Fedeli, ascoltiamo tutti ma poi decidiamo noi. C'è da dire che Avvenire oggi mette questa notizia in prima pagina, c'è un commento del suo direttore Marco Tarquinio. Avvenire è proprio il quotidiano della CEI e quindi dei vescovi, e scrive il direttore Tarquinio: qui si tratta di libertà di coscienza e di buon diritto, nessuno cerchi alibi, nessuno tenti di nascondersi dietro il presunto dito regolamentare alzato dal presidente della CEI. Il cardinal Bagnasco ieri nella sua Genova è stato interpellato a proposito del DDL sulle unioni civili ed adozione omosessuale e ha auspicato che in Parlamento tutti possano esprimersi facendo valere posizioni e obiezioni in assoluta libertà di coscienza. Qualcuno ha tentato di trasformare in diktat su una presunta preferenza tecnica per il voto segreto d'aula. Invece era un augurio da pastore e da cittadino. Questa è la difesa di Marco Tarquinio. C'è da dire che lo stesso Bagnasco, interpellato dalla stampa dopo le polemiche che montavano, si dice stupito dalle reazioni. Andrea Tornielli a pagina 5: non avevo certo intenzione di fare considerazioni di carattere tecnico. Questo è ciò che ripete il cardinal Bagnasco dopo le polemiche innescate dalle sue parole sul voto segreto. Parole che escono dall'ambito dell'esortazione morale ed entrano negli aspetti tecnici del dibattito in Parlamento. Eppure l'arcivescovo di Genova, che era stato interpellato dai cronisti, appare sorpreso per le reazioni. Con quelle parole dice: ho fatto appello a un principio di ordine morale, antropologico, riguardante la libertà di coscienza, la libertà di ciascuno. Non avevo certo intenzione di fare considerazioni di carattere tecnico. Questa è la difesa di Bagnasco. Vabbè, in tutto questo c'è la polemica, l'avete sentita, l'abbiamo fatta sentire alle 6:30, se eravate svegli, con i toni che si alzano. Gasparri che accusa il senatore Sergio Lo Giudice: hai comprato un bambino. Il senatore Lo Giudice è stato anche nostro ospite, è colui che con un compagno ha fatto ricorso alla maternità surrogata in California e dunque hanno un bambino, e il senatore Lo Giudice dice all'Unità: risponderà in sede civile, Gasparri verrà querelato da me per queste accuse infamanti. Mentre Giovanardi non ci ha visto più perché ha urlato in aula: ci sono due uomini che si baciano al Senato. Nel pubblico infatti c'erano Andrea Maccarone, ex presidente del circolo Mario Mieli, in tribuna, era Palazzo Madama con un amico, dice: non ci siamo baciati, forse gli ho fatto un saluto sulla guancia. Ma Giovanardi, che ha visto questa scena, dice: due uomini si baciano in Senato, vergogna, intervengano i commessi. E vabbè, e Tommaso Ciriaco va ad ascoltare il parere di Andrea Maccarone, appunto, e dell'amico Andrea Maccarone, che dice: ma di che ha paura Giovanardi? È ossessionato, eravamo lì, forse gli piacerebbe anche, non lo so, se ci baciassimo. Vabbè, insomma, siamo alle provocazioni, al dibattito che è trasceso davvero anche un po' nell'insopportabile, nello stile macchiettistico, purtroppo a volte, troppo e volte, italiano. E allora, invece, questa notizia dalle amministrative è che forse c'è un nuovo dietro fronte. Il centrodestra sembra aver trovato il candidato giusto per Roma. Pare che si ripunti su Bertolaso. Ma come? Due giorni fa non aveva detto al Corriere della Sera, dicendo che tra l'altro aveva purtroppo una nipotina gravemente malata, per questo motivo non poteva assolutamente dedicare anima e corpo alla campagna elettorale perché sta a Londra, e invece ora Berlusconi ripunta su Bertolaso e lui è tentato, dice: se tutti sono uniti, cioè Bertolaso vorrebbe un vertice a tre con un'investitura di Salvini, Meloni e Berlusconi stesso, questa è scontata visto che Berlusconi stesso lo sta cercando. Comunque forse il centrodestra ripunta su Bertolaso, staremo a vedere. Intanto qui, ragazzi, le banche crollano, le borse pure. C'è il caso in Germania Deutsche Bank, abbastanza evidente. C'è il decreto sul sistema bancario che sta suscitando molte polemiche, anche accuse da parte di alcuni a dire il governo sta facendo degli interessi poco chiari. Insomma, Mauro Meazza, qua ci devi dare qualche lume, Mauro! Buongiorno, buongiorno Alessandro. No, scusa, stavo leggendo invece delle onde gravitazionali, tutto sì. Le 24 ore. No, non volevo eludere la tua domanda. Non solo lumi, ma anche bussole. Allora, i mercati sono volatili, si dice, cioè sì. Vanno su e giù come uno yo-yo, dice un titolo di oggi. Allora, cioè, ci sono due pagine su Sole 24 ore, innanzitutto con la valutazione dei vari strumenti e diciamo delle indicazioni di comportamento, poi ovviamente tu i tuoi due urini fai un po' quello che vuoi, ecco, dei tuoi due urini, ma intanto noi ti diamo delle indicazioni. E per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri svoltosi l'altro ieri sera, molte altre informazioni sempre oggi sul Sole, non solo quelle che citavi tu appunto sull'intervento sul credito cooperativo, ma anche quelle sugli NPL, con la garanzia, sarebbe la garanzia pubblica, ma sai che abbiamo già detto il genetro tra virgolette, perché sennò poi la Commissione europea si impermalisce. Si arrabbia un po'. Si impermaliscono un po', sì, però noi spieghiamo lo stesso come funzionerà questa garanzia pubblica e anche gli sconti fiscali per le aste immobiliari. Tutto sul Sole 24 ore di oggi nelle prime pagine, ma se prosegui e vai ad esempio a norme e tributi come sempre devi fare, sì. Sempre tu devi fare, vedrai anche i contenuti del disegno di legge di riforma del diritto fallimentare, ugualmente importante. A proposito di risparmio, prima che me ne scordi, ricordati domani, anche se non ci sentiamo, che c'è Plus con il Sole 24 ore, non so se... Se vuoi ti chiamo a casa, sì, per dirmelo, non me lo sei, mo me lo segno. Sentiamoci domani mattina con comodo, se vuoi alla stessa ora, così ti segnalo anche qualche cosa da Plus, che come sai il settimanale che proprio si occupa di risparmio sul ogni sabato con il Sole 24 ore. E poi ti volevo dire, tra l'altro, lo sai che si sta avviando una riforma della legge di stabilità. E quindi ad esempio la spending review, sai quel sistema di andare a risparmiare, sì, sulla spesa pubblica improduttiva, adesso tagliare, piano con le parole, allora quel sistema deve diventare strutturale, cioè grazie ad un accorpamento delle due attuali due leggi, bilancio e stabilità, in una sola si arriverà anche a un automatismo, ma ti spiegano tutto oggi su norme e tributi perché tediarti con queste indicazioni. Tra le altre cose, ieri, una buona notizia, te la do io così, è la terza. Sì. Il pagamento del canone RAI in bolletta non comporta l'accertamento di eventuali arretrati. Esatto. L'ha spiegato ieri il viceministro Zanetti in un question time e tutti i particolari naturalmente in norme e tributi. Molte altre cose ti vorrei segnalare, ad esempio anche il fatto che si stanno modificando gli obblighi di trasparenza per le società quotate, ancora in norme e tributi, ma anche che gli Stati Uniti si sono impermaliti con l'Unione Europea. Per le inchieste sui big, sai, le multinazionali che risparmiano un po' troppo sulle tasse, ecco, l'Europa non è tanto d'accordo, ma gli Stati Uniti dicono: ecco, questo qui è un sistema vostro di farci concorrenza sleale. Va bene, molto altro ti vorrei dire, ma ti devo soprattutto fare gli auguri per una serena domenica, un pranzo della domenica, mi pare, sì, di ricordare. Ah sì, giochiamo a pranzo noi? Ma così mi pare d'aver letto. E invece voi? Noi con comodo ci presentiamo la sera per la cena della domenica. Fiorentina-Inter! Ma intanto noi ci sentiamo... È il momento del pronostico! No, ma... Direi un bel 1-0 per la Fiorentina. Va bene, eravamo andati così bene adesso. Va bene. Allora, c'è ancora la polemica, sapete tutta la questione della multa al Movimento 5 Stelle, l'accordo, no? Per chi si vuole candidare, 150.000 euro di penale se poi crei danno al Movimento. Ebbene, Open Police, che è questa associazione, spesso abbiamo invitato anche i loro responsabili, che controlla tutte le attività parlamentari, compresi i cambi di casacca, ha fatto un calcolo che oggi Fabrizio D'Esposito mette a pagina 10 del Fatto Quotidiano. Ed è questo: se si applicasse la penale di 150.000 euro per ogni cambio di casacca, in questa legislatura avremmo già racimolato 50 milioni di euro, perché sono stati 335 i trasformisti, chiamateli come volete, di Camera e Senato, che hanno cambiato partita. Addirittura c'è il caso citato di Dorina Bianchi, che oggi è sottosegretario, 7 partiti cambiati nel giro di pochi anni, 7 partiti. Comunque, 50, il Parlamento mobile con i cambi vale 50 milioni di euro. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Oh, noi oggi avremo ospite più tardi con Oscar Giannino, il presidente della Regione Puglia, Emiliano. Perché? Perché il governo ha deciso la data per il referendum sulle trivelle, sul cosiddetto Trivelle Day, se volete, in cui i cittadini dovranno esprimersi con una consultazione, e ha deciso il governo di non metterlo insieme alle amministrative a giugno, ma far votare il 17 aprile, scorporare. Ovviamente è scoppiata la polemica, sapete che nel referendum, se non si ottiene il quorum del 50% più un voto, il referendum non è valido, e dunque notoriamente gli italiani non sono molto propensi ad andare a votare referendum, questo storicamente abbastanza accertato. È chiaro che scorporare tutto ciò, un conto era si va a votare per le amministrative, già che ci sono lì per il referendum e forse lo voto, invece fissare una domenica 17 aprile separata fa pensare a quelli che sono i comitati promotori del referendum che si vuole nettamente boicottare questa consultazione popolare. Chiaramente è tutto legittimo da un certo punto di vista della legge. Il Fatto Quotidiano lo mette come titolo di prima pagina: referendum no trivelle, Renzi butta 300 milioni per silurarlo, perché tanto, secondo calcoli e sono stime, costerebbe scorporare, come si è fatto con una votazione il 17 aprile rispetto alle amministrative, 300 milioni di euro che pagheremo tutti, ovviamente. E ci sono pagine su questo. Niente election day, così il governo butta 300 milioni, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, mentre Repubblica no la data unica per referendum ed elezioni, scoppia la polemica. Dovrei raccontarvi di questa scoperta scientifica, sicuramente rivoluzionaria, la scoperta che di fatto ha dato ragione con una prova provata ad Einstein. Perché vi segnalo che il Corriere della Sera, a mio modo di vedere, è l'articolo più chiaro in materie che sono molto oscure, molto difficili, sono materie scientifiche, che però il Corriere della Sera mette a pagina 2-3 con un racconto di un articolo di 2 pagine di Carlo Rovelli, che racconta appunto l'importanza di questa scoperta, avere rilevato le onde gravitazionali. Il mondo della fisica, scrive Rovelli, era in fibrillazione da settimane. Le regole del gioco, che servono per ridurre il rischio di false allarmi, imponevano riserbo. I colleghi tenevano la bocca cucita, ma lo scintillio dei loro occhi li tradiva. In fondo è un Nobel praticamente certo. Sono state rilevate le onde gravitazionali. Per i fisici è un momento estatico. Fino al giorno prima le uniche onde fondamentali osservate dall'uomo erano le onde elettromagnetiche, quelle di cui sono fatti i segnali radio, la luce. Ieri è stato osservato un altro tipo di onda. È come se dovessimo riscrivere la genesi sostituendo Fiat Lux con Fiat Lux et Gravitatis Fluctus. Sono onde un po' simili a quelle elettromagnetiche, ma anche qualcosa di diverso e strano. Sono oscillazioni dello spazio. Quello che è straordinario è che noi conoscevamo l'esistenza di queste onde molto prima di vederle. La loro esistenza è predetta dalla relatività generale di Einstein. Se la natura benigna voleva onorare Einstein, a 100 anni dalla sua teoria ha trovato il modo più elegante. per arrivarci a osservarle è stata necessaria una vasta collaborazione internazionale dove gli italiani hanno ancora una volta un ruolo maggiore. Eravamo convinti che queste onde esistessero, ma una cosa è essere convinti che esistano leoni, un'altra è cercare un leone vero e guardarlo negli occhi. La differenza è ciò che chiamiamo scienza. L'esistenza di queste onde di gravità è conseguenza del fatto che niente va più veloce della luce. La luce impiega 8 minuti per arrivare dal Sole a noi. Se il Sole fosse spezzato via adesso, magari da una stella di neutroni, che succederebbe nei successivi 8 minuti sulla Terra? Risposta? Niente. Perché non c'è modo qui di sapere che il Sole non c'è più. Per saperlo deve arrivare qualcosa. Questo qualcosa è un'onda gravitazionale, il propagarsi rapido di una minuta deformazione dello spazio. L'articolo poi continua, ovviamente, sono due pagine di questo straordinario fisico Carlo Rovelli che spiega questa straordinaria scoperta. Devo dare la carta costa velocemente, la do al giorno che intervista Gabriel Garco, che racconta in tempo di utero in affitto quella giornalista russa che mi intervistò e poi divenne mia stalker e mi scriveva: puoi dare tuo sperma perché voglio piccolo Garco. Ma chi se ne frega!